584. Bocca di dama, prima maniera. La faccia chi vuole senza farina, io la credo necessaria per darle più consistenza. Zucchero in polvere grammi 250, farina d'ungheria o finissima grammi 150, mandorle dolci con alcune amare grammi 50, uova intere numero 6 e rossi numero 3, odore di scorza di limone. Le mandorle, dopo averle sbucciate e asciugate bene, pestatele in un mortaio con una cucchiaiata del detto zucchero e mescolatele alla farina in modo che non appariscano bozzoli. Il resto dello zucchero ponetelo in una catinella coi rossi d'uovo e la raschiatura del limone, lavorandole con un mestolo per un quarto d'ora. Versate la farina e lavorate ancora per più di mezz'ora. Montate con la frusta in un vaso a parte le 6 chiare e quando saranno ben sode da sostenere un pezzo da 2 lire d'argento, versatele nella menzionata catinella e mescolate ad agino ogni cosa insieme. Per cuocerla, versatela in una teglia di rame unta col burro e spolverizzata di zucchero a velo e farina, oppure in un cerchio di legno da staccio il cui fondo sia stato chiuso con un foglio.